Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Estate, tempo di viaggi e spesso ci succede di parlare con l'Adico in tempo di vacanze, come appunto questi mesi estivi, di voli e di disagi purtroppo con i voli e con alcune compagnie. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, al centro dell'attenzione di questa vicenda, ancora una volta dobbiamo dire purtroppo, la Windjet. Cosa succede? Sì, è stato doveroso da parte dell'Adico, soprattutto in questo periodo, perché sappiamo che l'anno scorso è capitato che un'importante compagnia low cost come Windjet è fallita e ha lasciato per terra moltissime persone anche qua nel Veneto, proprio qualche giorno prima che dovevano partire per raggiungere la destinazione delle vacanze. E pertanto da parte nostra, che come Adico stiamo seguendo molto da vicino questa vicenda, abbiamo voluto un po' fare il punto per capire fino a che punto i consumatori riusciranno a ottenere un risarcimento e se questo risarcimento, come tutte le vicende all'italiana che caratterizzano un po' il nostro paese quando capitano queste cose qua, dà modo e possibilità ai consumatori di ottenere un riscontro o quantomeno un rimborso. Ecco, ricordiamo che la Windjet attualmente si trova nello stato di concordato preventivo, che appunto, come è stato stabilito, è prevista una restituzione dei soldi spesi dai viaggiatori l'anno scorso, però una restituzione molto limitata a quanto pare, sempre che arrivino questi soldi. Allora, purtroppo è così, però diciamo innanzitutto che il concordato preventivo, per chi magari non lo sa, è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore cerca un accordo con i suoi creditori per non fallire, quindi teoricamente la compagnia potrebbe ancora viaggiare. In realtà oggi comunque le notizie che stiamo ricevendo, anche se non confermate, e dobbiamo dire che anche qui siamo rimasti molto esterrefatti dal fatto che come Adico abbiamo scritto due volte al commissario Mario Limberti, che è l'avvocato che si è incaricato di occuparsi di questo concordato preventivo. Siamo in attesa presso il Tribunale di Catania a ottenere delle risposte precise, perché comunque molti consumatori si sono rivolti a noi proprio per questa cosa. E come hai detto te, le notizie che stanno trapelando è che purtroppo le persone rimaste coinvolte, che avevano cioè comprato i biglietti e dovevano partire, rientrando tra i debitori chirografi, che sono quelli che sostanzialmente hanno meno precedenza rispetto ai grandi creditori, rischiano veramente, come anticipato te, di vedersi, e sempre con il segno del se possibile questo, un rimborso pari a circa il 5% di quanto hanno sostenuto comprando il biglietto. Quindi 5% per chi ha speso appunto magari qualche centinaio di euro per i biglietti, i grandi creditori, che immagino siano le banche soprattutto e chi era dentro la società, avranno diritto circa al 48%, e poi ci sono dentro a questa quota anche i dipendenti. È una vicenda appunto, come dicevi tu, che risale all'estate scorsa e che ancora non è conclusa. C'è qualche speranza di vederla prima del 2014 chiusa questa cosa oppure no? Allora, noi come Adico innanzitutto, Mirko, ci siamo opposti a questo concordato, a questa procedura concorsuale, perché comunque riteniamo che il 5% è una cifra troppo esigua per soddisfare le richieste di risarcimento, almeno da parte di chi stanno aspettando, come hai detto te, la restituzione di diverse centinaia di euro di soldi spesi nei biglietti. Poi per quanto riguarda la tempistica, veramente essendo una classica vicenda all'italiana, sono veramente titubante che per il 2014 si possa risolvere così allegramente. C'è da dire che come Adico negli anni trascorsi siamo stati impegnati in altre vicende molto importanti che hanno coinvolto molti consumatori, soprattutto nel periodo estivo. Vedi per esempio la Myer e la Sky Europe, due compagnie di viaggio che sono fallite sempre verso il 2009-2010. E per quanto riguarda compagnie di viaggio e tour operator molto importanti, come per esempio è capitato a Toro Mondo nel 2008-2009, i viaggi di ventaglio sempre un paio d'anni fa. Tutte situazioni che hanno visto come vittime, migliaia di persone che hanno aspettato un anno, hanno lavorato un anno, hanno messo via dei risparmi, che speravano di poter andare qualche giorno, una settimana a riposarsi per le meritate vacanze, sono rimaste, diciamo, proprio a terra sotto tutti i punti di vista. Per cui riteniamo che anche questa vicenda merita la dovuta attenzione e che questo 5% sinceramente lo riteniamo alquanto scandaloso per poter andare incontro alle esigenze delle persone che attendono ancora un risarcimento da oltre un anno. Ecco, qui parliamo non di un semplice annullamento di un volo o di uno spostamento, qui parliamo proprio di fallimento dell'azienda. Non ci sono modi per cui un viaggiatore si possa tutelare in casi del genere? Sì, e parliamo, Mirko, fallimento che ha coinvolto persone al momento della partenza, ma anche persone che dovevano rientrare in Italia e che magari erano all'estero. Certamente per tutelarsi quando c'è un fallimento è molto difficile, però ecco, il nostro consiglio a questo punto, come Adico, in virtù anche delle nostre esperienze questi ultimi anni, che appunto come abbiamo detto poco fa, è quello: sì, le compagnie low cost vanno bene perché permettono di risparmiare, internet va bene perché diventa uno strumento che permette di accelerare i tempi di imbarco e non pagare le agenzie di viaggio, però certamente si sta rivelando come il rischio di prenotare troppo presto stia diventando sempre più pericoloso. Pertanto il consiglio principe che ritengo di poter dare è: quando si decide di voler utilizzare una compagnia low cost, si farlo, ma di aspettare fino all'ultimo momento, perché ecco, questo è l'esempio dopo le precedenti compagnie che il sistema sostanzialmente non ha portato convenienza e sostanzialmente non ha pagato. Poi quando si utilizzano acquisti su internet o compagnie su internet, ecco, bisogna sempre stare attenti di individuare chi c'è come interlocutore della parte del filo, leggere bene le avvertenze, cercare di anticipare il minor importo possibile per incapparare una struttura, un albergo rispetto a un altro, diffidare comunque da persone che si improvvisano se modo di poterlo scoprire, fidarsi molto delle recensioni, sapere che ci sono dei siti sicuri rispetto ad altri e soprattutto ricordarsi al consumatore che è attivo anche per tutta l'estate uno sportello che si chiama Vacanza Informata, che presso l'Adico si può consultare, ci sono dei importantissimi vademecum, consigli e indirizzi utili che le persone possono gratuitamente trovare. Ed è un tema che probabilmente riprenderemo nel corso dell'estate. Intanto con questo ci fermiamo, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a breve per un altro argomento. Grazie Carlo e buona giornata. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.